Και η μέρα είναι δεζάρτο και ένα νερά η μένα κουόρε. Σκριεύω βάρσο φάτο κι ο με αυτοψίες τα βίβω δι στράδα. Bodlivo di un verso perso, Baudelaire. Come Cristo vivo ancora qua, cercando di scoprire di là. Giuda, dove non c'è malumore voglio stare, dove il mio cuore ode sere nuove. Giuda. Come chimera cerco dentro occhi come spilli, mano intingi nei giochi gingilli di arti nere per scrivere versi acrobati. Sono partito con acerbi e marci versi all'arte. Ora vorrei con un bacio svegliarti per dire tutto è tutto. Il ballo intorno a te, come laccio il bello che è. Sono vero, sono solo se mi conosci bene. Come un padre abbiamo avuto troppo poco tempo, vero? Insieme sere nere, più il mondo si muove a dividerci, più saremo assieme. Ombra mia, stella nera mia, paradossia. Andiamo a vivere io e te nella casa perfetta e così sia. Via da sti drammi, lontano dalle folli genti dei locali, scriverò per te versi immortali. Non dovrei ripetermi, non io Paganini, tu che sei nel fiore degli anni delle albe nere, sere nere, sere serene, con questi versi vorrei regalarti, regalare il tuo nome alle stelle, per poter meglio parlarti, perché io guardo nel cielo le volte notturne. Dove tirata la penna cerca note con te, cercando il tuo tesoro per portarti sul mio veliero. Via da tutto per regalarti, dove non ho potuto scrivo un verso celebrando questo tutto solo per te. Il mondo, il resto del mondo non è invitato a vedere da così vicino lune piene. Non dovrei ripetermi, non io, Mister Paganini, tu che sei nel fior degli anni delle albe nere, sere serene, con questi versi vorrei regalarti, regalare il tuo nome alle stelle, per poter meglio parlarti, perché io guardo nel cielo le volte notturne, dove tirata la penna cerca note con te, cercando il tuo tesoro per portarti sul mio veliero. Via da tutto per parlarti, dove non ho potuto scrivo un verso celebrando questo tutto solo per te e me. Il mondo, il resto del mondo non è invitato a vedere da così vicino luna piena. non dovrei ripetermi, non io. Paganini, ma ti amo.